giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cresce l'attesa alla vigilia della partita di Supercoppa allo Stadio Friuli di Udine tra i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi del Tottenham, i cui tifosi sono in arrivo. Poco fa è stato inaugurato in Piazza Libertà il Fan Village con le tre coppe della UEFA in esposizione. Sarà il medico legale Francesca Sinopoli a effettuare l'autopsia sul corpo di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna a Cemona del Friuli. L'esame è stato fissato per domani mattina. Intanto nel pomeriggio i RIS di Parma effettueranno nuovi rilievi nella villetta Teatro della Tragedia. Si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente è occorso a una bambina che, mentre si trovava in una piscina del villaggio turistico Punta Spin di Grado, è rimasta temporaneamente sott'acqua per il risucchio di un sifone. Dopo due vendemmie ai minimi storici dal punto di vista quantitativo, tecnici e viticoltori stimano che le produzioni del 2025 in Friuli Venezia Giulia finalmente rientreranno nella media regionale. Tuttavia, secondo Coldiretti, la situazione non è uniforme sul territorio a causa degli episodi di grandinata che si sono verificati a macchia di leopardo. Quest'anno a livello nazionale si registrano cali di presenza in diversi stabilimenti balneari, anche per l'aumento delle tariffe di entrata e di noleggio delle attrezzature. Siamo andati a verificare la situazione dei prezzi a Trieste. Per difendersi dal caldo record di questi giorni, alcuni comuni hanno predisposto appositi piani a tutela in particolare delle persone anziane e dei soggetti più vulnerabili. Oggi è il 12 agosto e questa è la notte in cui, come da tradizione, è possibile ammirare meglio il fenomeno delle stelle cadenti, conosciute anche come lacrime di San Lorenzo, dal nome del santo festeggiato il 10 del mese. Quest'anno però la luna piena potrebbe complicare la visione. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Daniele Lettigi, a condurre anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 12 agosto. In attesa dunque del grande match di domani, che allo Stadio Friuli metterà in palio la Supercoppa europea tra i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi del Tottenham, i trofei della Champions League, dell'Europa League e della Supercoppa sono arrivati nell'area Fan Festival di Piazza Libertà, che è stata inaugurata poco fa alla presenza di alcuni sportivi del Friuli Venezia Giulia. Per i tifosi delle due squadre che si contenderanno il titolo sono state invece previste due aree, Piazza Primo Maggio per gli inglesi e Parco Moretti per i francesi. Udine, capitale del calcio europeo, una prima volta in Italia per la finale di Supercoppa che metterà sulla vetrina internazionale il capoluogo friulano. Il conto alla rovescia verso la gara di domani sera fra Paris Saint-Germain e Tottenham è partito dall'esposizione in Piazza Libertà delle tre coppe che rappresentano la sfida, la Champions, l'Europa League e, per chi la alzerà al cielo, la Supercoppa. Testimonial della presentazione, un orgoglio del Friuli sportivo, Jonathan Milan. Tifosi in fila per ammirarle e scattare una foto ricordo, tra di loro anche qualche fortunato che è riuscito ad acquistare un biglietto tra quelli andati quasi subito esauriti online. E ci sono anche i tifosi degli Spurs, già presenti a Udine con la speranza di vedere la squadra inglese trionfare. Arrivano dall'Inghilterra ma anche dalla Repubblica Ceca. In allestimento aprirà domani il villaggio che li ospiterà in Piazza Primo Maggio. I tifosi francesi invece sono attesi al Parco Moretti sempre domani. Nei due villaggi sarà garantito dalla Sores il piano operativo di emergenza con ambulanze, personale e punti di primo soccorso. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: sarà il medico legale Francesca Sinopoli ad effettuare l'autopsia sul corpo di Alessandro Venier, l'uomo ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna a Cemona del Friuli il 25 luglio. L'esame sul cadavere è stato fissato per domani mattina alle 9 nella camera settoriale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Intanto nel pomeriggio alle 17 sono previsti nuovi rilievi nella villetta Teatro della Tragedia da parte dei RIS di Parma. Sequestrata e sigillata dal 31 luglio scorso, oggi alle 17 verrà riaperta e passata al setaccio la villetta di Cemona del Friuli, dove 12 giorni fa è stato trovato il cadavere di Alessandro Venier tagliato immerso in un bidone di calce viva. Da Parma arrivano gli investigatori del RIS che daranno supporto ai colleghi del raggruppamento investigazioni scientifiche di Udine, che fin dal primo giorno indagano sul delitto. Con Lumino, le nuove tecnologie investigative, gli inquirenti cercheranno conferme al racconto fatto da una delle due indagate per omicidio volontario pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. La mamma di Alessandro, Lorena Venier, davanti a PM e GIP. La fidanzata dell'uomo, la colombiana Malin Castro Monsalvo, invece si è chiusa nel silenzio dal giorno in cui lei ha deciso di chiamare i carabinieri denunciando l'omicidio. Noi siamo con l'avvocato della giovane Federica Tosel. Quando la ragazza sarà pronta a raccontare, secondo lei, la sua versione? Io questo non glielo so assolutamente dire, io sono un avvocato e non sono né uno psicologo né uno psichiatra. Sicuramente arriveremo prima noi a parlare di questi fatti con la signora Castro Monsalvo quando sarà pronta, e quando sarà pronta ce lo diranno i nostri consulenti. L'autopsia fissata per domani mattina, perché in questo caso è ancora più importante che in tanti altri omicidi? Ma l'autopsia in tutti i processi per omicidi è fondamentale. In questo caso è chiaro che abbiamo delle dichiarazioni molto specifiche della signora Venier e l'autopsia confermerà o non confermerà la dinamica. Poi i ruoli, ovviamente l'esame oggettivo di una salma o di un corpo non potrà mai darne conferma o no, però quantomeno a livello di dinamica, a livello del fatto se sia per esempio deceduto a causa dei sonniferi o dell'insulina o per un'azione meccanica, questo sicuramente l'autopsia lo dirà. La TGR ha indagato sul passato colombiano del ragazzo, emergono violenze contro altre donne fatte anche lì in Sud America. Questo elemento per voi della difesa è importante? Questo elemento può essere importante, come no, io questo non glielo so dire perché vorrei parlarne prima con la mia assistita. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze l'incidente occorso ieri a una bambina che, mentre si trovava in una piscina del villaggio turistico Punta Spin di Grado, è rimasta temporaneamente sott'acqua a causa del risucchio di un sifone. Le verifiche dell'azienda sanitaria Asugi e dei carabinieri si concentrano sull'intensità di aspirazione dell'acqua di uno dei sifoni di riciclo della piscina più piccola del camping residence Punta Spin. La bambina di 6 anni di Trieste si è avvicinata all'imboccatura e non ha poi trovato la forza di staccarsi, subendo un effetto ventosa e rimanendo quindi con l'addome in aderenza al sifone. In tale posizione il corpo e la testa permanevano sott'acqua. Dopo poco meno di un minuto il nonno si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto, riuscendo a trarre in salvo la nipotina con l'aiuto del personale di salvataggio. La piccola è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, ma non avrebbe subito conseguenze rilevanti. Sentiamo il titolare del Residence Camping Punta Spin, Mario Andretta. Grazie al pronto intervento della nostra bagnina, del nonno e anche delle altre persone presenti, la bambina è stata prontamente estratta dall'acqua e quindi non ha sofferto più che qualche escoriazione dovuta al contatto con quell'apparecchio aspiratore. Grazie a Dio sembra che debba essere dimessa prossimamente dall'ospedale. Voglio sottolineare che i nostri impianti sono costantemente monitorati nella loro efficienza. Episodi come questi sono è unico, ne è una dimostrazione le centinaia, se non migliaia di ospiti che quotidianamente visitano le nostre piscine e le nostre strutture. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo 2 vendemmie ai minimi storici dal punto di vista quantitativo, tecnici e viticoltori stimano che le produzioni del 2025 in Friuli Venezia Giulia finalmente rientreranno nella media regionale. Tuttavia, avverte Coldiretti FVG con il suo presidente Martin Figeli, la situazione non è uniforme sul territorio, in quanto, al netto delle grandinate che hanno colpito alcuni comuni del Medio Friuli e della Bassa, vi sono varietà, friulano in particolare, che quest'anno presentano una resa significativamente ridotta, specie nelle aree collinari. La previsione è diversificata anche sul piano qualitativo in funzione dei terreni e della conduzione agronomica. Ci sono infatti vigneti con produzione sana ed equilibrata, dai quali si attende una grande vendemmia. Per contro, nei suoli meno drenati, le abbondanti piogge registrate nel mese di luglio hanno fortemente accelerato la crescita dei grappoli, aumentando sensibilmente il rischio di attacco da marciumi. Pertanto, per le varietà precoci a grappolo compatto, come il pino nero, il pino grigio, il pino bianco e lo Chardonnay, si prevede una vendemmia alquanto anticipata che nella destra tagliamento inizierà entro la fine di agosto. Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono comunque favorevoli e questo fa ben sperare, specie per i bianchi meno precoci e per le uve rosse, la conclusione di Figel. Estate, tempo di vacanze, e chi ricerca un po' di refrigerio dalla canicola opprimente di queste giornate sceglie di andare in quota, in montagna o di raggiungere il mare per un tuffo rinfrescante. Quest'anno a livello nazionale si registrano cali di presenza in diversi stabilimenti balneari, anche per l'aumento delle tariffe di entrata e di noleggio delle attrezzature. Sentiamo come sta andando la stagione e qual è la situazione a Trieste. E salve, ci occorrerebbe un ombrellone e due lettini. Sono 70 euro. No, ma noi ci servono per qualche ora, non li dobbiamo comprare. Il caro ombrellone è diventato il tormentone dell'estate, tanto che pure TikTok ironizza sui prezzi eccessivi che hanno svuotato le spiagge. A Trieste, dove alla tintarella nessuno rinuncia, la situazione sembra a macchia di leopardo. Se Manfredi Carignani, dello stabilimento Stico, parla di un calo del 20% perché, dice, la gente ha sempre meno soldi da spendere, poco lontano, nello stabilimento Grignano 2, Alex Benvenuti definisce l'occupazione stabile al netto, ovviamente, delle condizioni meteo, visto che luglio non è stato un granché. Lo stabilimento Le Ginestre assicura Luca Calabrosso, il tempo è bello e sempre pieno da anni. L'80% degli ombrelloni è affittato per tutta l'estate a 3.000 euro e per averli c'è una lunga lista d'attesa. Il restante 20% non è mai vuoto. Tutto questo con una dinamica dei prezzi che non vede particolari aumenti. Da 3 anni tariffe invariate da Stico, 18 euro ingresso e brandina nei giorni feriali, 25 in festivi e prefestivi. Lo stesso a Grignano 2, con prezzi simili. Prezzi fermi anche alle Ginestre, dove funziona così: un ombrellone, due lettini, il posto auto e l'ingresso per 2 adulti e 2 ragazzi sotto i 15 anni, 50 euro, che diventano 75 in festivi e prefestivi. Prezzi in aumento del 20% invece nello storico stabilimento Ausonia. Ingresso più lettino costano 15 euro, ma qui almeno si può venire con la propria brandina e pagare 10 euro d'ingresso. In provincia il più caro è Porto Piccolo, si va dai 77 euro per un ombrellone e 2 lettini fino a 173 per la sistemazione in gazebo. Comunque, niente a che vedere, ad esempio, con la Liguria, dove una postazione in prima fila può costare anche 350 euro al giorno. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.42 minuti diamo uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi, il mare poco mosso, con temperatura di 23 gradi e 5 decimi. A Pordenone 30 gradi, a Udine 31, a Gorizia 31 gradi e mezzo. A Tarvisio 23 gradi, a Sappada 23 gradi e mezzo, a Piancavallo 24 gradi, a Forni di Sopra 25, a Tolmezzo 27. Sul Monte Lussari 16 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 19 gradi e mezzo. Passando alla costa, a Lignano e Grado ci sono 31 gradi con temperatura del mare che è rispettivamente di 26 gradi a Lignano e 5 decimi e di 25 gradi e 5 decimi a Grado. Queste le previsioni per oggi. Cielo in prevalenza sereno con locale nuvolosità pomeridiana sulla zona montana. Nel pomeriggio il vento andrà attenuandosi, ma rimarrà borino sul Carso e a Trieste. Temperature massime ancora elevate sia sulla pianura che sulla costa. Ma in generale come si fa a difendersi dal caldo opprimente di queste giornate con temperature che hanno fatto registrare record storici, come gli oltre 37 gradi registrati a Trieste appena 2 giorni fa? Beh, alcuni comuni hanno predisposto appositi piani proprio a tutela, in particolare delle persone anziane e dei soggetti più vulnerabili. Sentiamo. Ondata di calore protagonista almeno fino al 20 del mese, temperature molto alte con punte in pianura in costante aumento fino a raggiungere i 38 gradi venerdì, giorno di Ferragosto. Sulla costa previste massime fino a 36 gradi. Un lieve calo inizierà solo dopo il 15, colpa del forte anticiclone subtropicale che sta interessando gran parte dell'Europa e che porta correnti nord-orientali calde e secche. Per chi lavora anche in questi giorni ad alto rischio per il caldo, ricordiamo che è in vigore l'ordinanza regionale che prevede la sospensione delle attività edili, cantieri, agricoltura, cave e ambienti interni non ventilati dalle 12.30 alle 16. Sulla piattaforma World Climate si trova molto materiale informativo in merito a patologie da calore e le raccomandazioni da seguire. Intanto tutti i capoluoghi di provincia hanno protocolli di aiuto per i cittadini più fragili con il piano di protezione civile. Particolare attenzione alle segnalazioni di incendio boschivo fatte al 112 che vengono gestite direttamente dalla sala operativa regionale. I volontari pattugliano le zone più a rischio. Intanto l'Ispettorato Forestale Regionale ha potenziato il sistema dei direttori delle operazioni di spegnimento. A Pordenone poi c'è il cosiddetto piano emergenza caldo realizzato con il supporto di Croce Rossa, Auser, Associazione San Valentino e altri enti locali. Il servizio comprende trasporto, consegna della spesa, ritiro farmaci e soccorso alimentare aumentare proprio nei giorni come questi, quando le temperature superano i 33 gradi per 3 giorni consecutivi. Almeno la qualità dell'aria tiene in tutta la regione. Questo caldo intenso non coincide con alti livelli di ozono, come era accaduto a cavallo fra giugno e luglio. Intanto, oltre ai bagnamari, in piscina o l'aria condizionata a volontà, in decine di migliaia si difendono dal caldo condividendo compulsivamente post divertenti come quelli del profilo social Quelli che odiano il caldo, ma il comune mezzo gaudio. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Per offrire un'alternativa culturale a tutti coloro che a Ferragosto rimarranno in città o ai turisti in visita a Pordenone, il comune del capoluogo della destra Tagliamento garantirà l'apertura pomeridiana dei musei cittadini. Per questo, venerdì 15 agosto, il Museo d'Arte di Palazzo Ricchieri, il Museo Archeologico presso il Castello di Torre e il Museo di Storia Naturale saranno aperti e visitabili dalle 15 alle 19. La Biblioteca Civica, invece, rimarrà chiusa sia venerdì che sabato. La settimana di Ferragosto, ha detto il sindaco Alessandro Basso, è quella in cui la gran parte dei pordenonesi si trova in ferie. L'apertura dei musei è quindi una valida alternativa per chi non trascorre le vacanze al mare o in montagna, ma preferisce uno svago di tipo culturale. E con il caldo di questi giorni, tra l'altro, i centri museali sono una valida alternativa che consente di visitare dei luoghi freschi fuggendo dalla calura. In vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, simili esperienze, ha detto il sindaco, saranno sempre più veicolate. Oggi è il 12 agosto ed è la notte in cui, come da tradizione, è possibile ammirare meglio il fenomeno delle stelle cadenti, conosciute anche come lacrime di San Lorenzo, dal nome del santo festeggiato il 10 del mese. Quest'anno però la luna piena potrebbe complicarne la visione. Sentiamo perché nell'intervista all'astronomo Mauro Messerotti, docente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Le stelle cadenti si chiamano così perché sembra che siano delle stelle che cadano dal cielo, in realtà sono le tracce luminose che sono provocate, diciamo, da dei piccoli frammenti roccia e polveri che sono stati lasciati da varie comete nella loro orbita intorno al Sole. Quindi quando una cometa si avvicina al Sole, arriva al perielio, che è il punto più vicino al Sole della sua orbita, si riscalda e il ghiaccio che ricopre il nucleo sublima e rilascia polvere, rilascia questi frammentini, questi sassolini che vanno diciamo da qualche millimetro fino alle dimensioni di qualche appunto sassolino. Questi penetrano nell'atmosfera terrestre a una velocità di 200.000 km all'ora e praticamente si distruggono, si vaporizzano, lasciano queste scie luminose che noi chiamiamo appunto stelle cadenti. Perché le vediamo proprio in questo periodo? Le osserviamo uno o più sciami in ogni mese dell'anno, solo che le più note sono le Perseidi, anche se non sono le più belle sono in inverno, ma non siamo tanto portati noi nell'emisfero boreale a uscire, diciamo, in gennaio, febbraio, eccetera. Comunque, le Perseidi sono le più note e sono visibili appunto nel cielo estivo. Si vedono dal 17 luglio fino al 24 agosto, con un picco, cioè una frequenza massima osservabile, che cade tra quest'anno il 12 e il 13 di agosto, e quindi speriamo di poterle osservare anche se c'è un problema, perché c'è la luna. A pochi giorni dalla luna piena, quindi siamo intorno al 92-90% di diametro luminoso del disco lunare, e questo disturba le osservazioni. Come e dove si potranno vedere meglio? Nel nostro emisfero le possiamo osservare in qualsiasi direzione, quindi non è necessario concentrarsi sulla costellazione del Perseo. Dove osservarle? Come sempre quando si osservano fenomeni astronomici, nei posti dove il cielo è più buio. Cosa serve per osservarle? Nulla, l'occhio nudo è la miglior cosa. L'ora migliore è, diciamo, da 2 a 1 ora prima dell'alba. Quindi, diciamo, tra le 2 e le 4 del mattino, perché la Terra entra frontalmente in quello che è lo sciame di meteoroidi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora notizia di calcio, visite mediche oggi a Udine per il 18enne scozzese Lennon Miller, centrocampista del Motherwell, valutato 5 milioni di euro, bonus compresi. Giocatore che era seguito anche da Ajax, Bologna e da vari club del Regno Unito. In spettacoli si conclude oggi la rassegna Music Nights proposta dal Teatro Verdi di Pordenone. A salire sul palco allestito in Piazza della Motta saranno alle 21 gli ottoni dell'orchestra giovanile Gustav Mahler a Pordenone in questi giorni per la residenza estiva, impegnati in un viaggio musicale che va dal barocco veneziano al jazz del Novecento. Per il cartellone di Trieste Estate sono due gli appuntamenti previsti questa sera alle 20.30 nel giardino del Museo d'Antichità Winckelmann. Marzia Vidulli Torlo, conservatore del museo fino al marzo di quest'anno, proporrà un coinvolgente racconto intitolato 21 aprile 1925, il nuovo museo, in un incontro che farà rivivere l'inaugurazione della sede del Civico Museo di Storia ed Arte nell'edificio di via della Cattedrale 15, annesso all'orto lapidario. Al giardino del Museo Sartorio, alle 21, lo spettacolo Note stellate sulla scia di Van Gogh, con Gabriele D'Alonso al pianoforte, Loop Station e sintetizzatori e Clara Di Giusto al violoncello. Si intitola A luci spente, il documentario di Mattia Epifani, che ricostruisce la vita drammatica e controversa del pugile romagnolo Loris Stecca, il più giovane campione del mondo di boxe nella storia dello sport italiano, caduto in disgrazia dopo il ritiro seguito a un incidente d'auto e reduce da anni di carcere per tentato omicidio. Il film sarà presentato questa sera alle 21 all'Arena Wow di Pordenone dallo stesso produttore Alessandro Marotto. La notizia di servizio per chiudere: la biblioteca civica Attilio Ortis di Trieste informa che tutti i libri attualmente in prestito con collocazione diversa da RP, Raccolta Patria, devono essere restituiti entro il 31 agosto di quest'anno. Questa misura è necessaria per permettere il trasferimento dei libri dalla sede storica in vista dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Biserini. Gli utenti sono cortesemente invitati a verificare quali libri hanno in prestito e a restituire quelli con collocazione diversa da RP Raccolta Patria al Banco Prestiti in via Madonna del Mare. Ed è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Emma Soliman. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.